tremore da che la mia Violetta oggi per me lasciò dovizi amori e le pompose feste o valli e magia vezza vede a schiavo ciascun di sua bellezza ed or contento in questi ameni luoghi tutto scorda per me qui presso lei io rinascermi sento ed al soffio d'amor rigenerato scordo le gaudi suoi tutto il passato degne e bollenti spiriti il giovanile ardore bella tempra col platino sorriso dell'amor dell'amor dal dì che disse vivere io voglio a te fedel dell'universo in me di che disse vivere io voglio a te fedella sì dell'universo in me more io vivo quasi in ciel io vivo in ciel dell'universo in me, amore. Io vivo quasi in cielo, sì, io vivo quasi in cielo. Io vivo quasi in cielo. Annina, donde vieni? Da Parigi. Chi te il commise? Una mia signora. Perché? Era di Marco Valio Cocchi, e quanto il corpo stiene. Che mai sento? Lo spendio è grande a vivere quei sonnichi. E tacevi? Di quel silenzio imposto. Imposto? Orva bisogna. Vieni a Luigi. Orvanne, andrò a Parigi. Questo colloquio ne sappia la signora. E tutto vengo a riparare ancora. Thank you. vostro avere, or volete spogliarvi? Ah, il passato, perché, perché m'accusa? Io non esiste, ora Manfredo, e più non c'è più. Sacrificio chiego. No, tacete, terribile cosa chiedere ste certo. Il previdi Battesi era felice troppo. Alfredo il padre, la sorte, l'avvenir domandor qui due suoi due figli. I due figli. Ora siccome un angelo Iddio mi die una figlio, se Alfredo nego niedere in seno la famiglia, l'amato e amante giovine cui sposa andar doveo, or si ricusa il vercolo che lieti lieti ne rendeva, dei non mutate in triboli le ose dell'amor, a non mutate in triboli le ose dell'amor, a pieghi miei resistere, no, no, non voglio il vostro cor, no, no. Ah, comprendo, dovrò per alcun tempo d'Alfredo allontanarmi. Doloroso, ora per me, pur. Non è ciò che chiedo. Cielo, che più cercate, offerse assai. Pur non basta. Volete che per sempre a voi rinunzi. E d'uomo. Pensate, per voi non avrò il basamento. siedo in tempo ancor. È Dio che ispira giovine, è Dio che ispira giovine, è Dio che ispira dai detti angeli tuoi. Non amarlo, diteli! Non crederà! dite? Seguirammi. Allor? Qual figlio? Qual figlio m'abbracciate? Forte così sarò. Fra primi fiori io, afflitto per ogni dire, a suo conforto ti crollerete. E pensate? Ma che poco vorreste al pensier mio? Generosa, e per voi che far possio? Che far possio, o generosa? Thank you. che fai? Nulla. Scrivevi? Sì, no. A turbamento? A chi scrivevi? A dammi quel foglio. Perdona. Mi perdona, se ne è preoccupato. Chi sono? Non c'è mio padre. Lo vedesti? Ah no, se vero scritto mi lasciava. Però l'attendo, tornerai in vederti. Che qui non mi sorprenda, lascia che m'allontani. Tu lo calma, ai piedi suoi mi getterò. Dimmi se più non ne varrò. Sarò infelice perché tu m'ami, Alfredo, tu m'ami. Non è vero, tu m'ami, Alfredo, tu m'ami, Alfredo, non è vero. Attendo. Che piangi? Di lacrime a mia nuova, ma son tranquilla, e lo vedi, ti sorrido, lo vedi, ma son tranquilla, ti sorrido, sarò là, tra quei fior, presso a te sempre, sempre, sempre, presso a te. Forse d'ogni avere a raffreddar la perdita, ma Nina lo impedirà. Qualcuno è nel giardino, chi era? Il signor Germont. Son io. Una dama da un cocchio di qua non lunge mi diede questo scritto. Di Violetta. Perché sono io commosso? A raggiungerla forse dammi in vita. Io tremo. Oh ciel! Coraggio! Alfredo, aggiungevi di questa voglia! Padre mio! Quanto soffri, porteggi il pianto, ritorna di tuo padre. Orgoglio e vanto. Okay. sai quanto soffrì, tu non sai quanto soffrì il tuo vecchio genitor, e lontano di squallor il suo tetto si coprì, il suo tetto si coprì di squallor e di squallor. Ma se al fin ti trovo nel cor, se me speme non falli, se la voce dell'onor in te appieno n'ammuti, ma se al fin ti trovo nel cor, se me speme non falli, Dio mi sare, ti trovo nel cor, Dio mezza de, Dio mezza di. Ne rispondi d'un padre all'affetto, mille servi divorami il petto, mi lasciate, lasciarti, oh benedetta, non più duci, partiamo, da fretta, a fondo, fondo.